partirono le rondini dal mio paese freddo senza sole, cercando primavera di viole, nidi d'amore e di felicità. La mia piccola rondine partì senza lasciarmi un bacio, senza un addio partì. Non ti scordar di me, la vita mia legati a te. Io t'amo sempre più, nel sogno mio rimani tu. Non ti scordar di me, la vita mia legati a te. C'è sempre un nido nel mio cuore per te, non ti scordar di me. C'è sempre un nido nel mio cuore per te, non ti scordar di me.